con Dario del collettivo di fabbrica GKN per presentare l'azionariato popolare e la campagna 100 per 10.000. Ben trovato. Ciao a tutte e tutti. Partiamo dalla vicenda GKN, per chi non la conoscesse, per sommi capi, descriviamola. Noi siamo un'azienda dell'automotive, producevamo semiassi a Firenze. Siamo saliti agli onori della cronaca perché il 9 luglio 2021 dissero di stare a casa per un giorno di ferie collettiva e in verità ci mandarono una mail dicendo che eravamo tutti licenziati. Da lì partirono mesi di lotta dura, anche con cortei importanti, perché sin dall'inizio chiarimmo che il problema non erano quei 420 posti di lavoro, ma un intero sistema che li aveva attaccati, che come attaccava noi, attaccava chi è precario, chi ha perso il lavoro prima di noi in altre forme. Tant'è che il motto della nostra lotta è Insorgiamo e non semplicemente la GKN non si tocca. Quella fase fu vittoriosa, riuscimmo a sconfiggere i licenziamenti, arrivammo a proporre un piano industriale alternativo con una proposta di polo pubblico della mobilità sostenibile e da lì hanno elaborato evidentemente un'altra tattica per licenziarci. Ci hanno lasciato in un limbo in cui non siamo licenziati, ma non c'è lavoro, semplicemente svaniamo nel nulla perché evidentemente dopo un po', piano piano, i colleghi se ne vanno, si rifanno una vita e hanno fatto questo dicendoci che arrivava il Cavaliere Bianco, che è sempre dietro la collina, ma non arriva mai. È arrivato un proprietario che ha ritirato i licenziamenti, ma lui non è né un investitore né un industriale del settore, ma ci diceva che avrebbe portato altri investitori che non si sono mai visti. A quel punto noi abbiamo scardinato questa tattica contro di noi, creando una società operaia di mutuo soccorso, arrivando a creare anche una cooperativa, creando un piano industriale dettagliato, a questo punto non generale, ma basato sulla singola fabbrica di riconversione ecologica e socialmente avanzata della fabbrica. In tutta risposta ci hanno assediato sia calunniandoci, facendoci terra bruciata attorno, o almeno provandoci, sia con 8 mesi senza ricevere stipendi, quando alla fine i decreti ingiuntivi per ottenere i nostri stipendi stavano arrivando a pignoramento e quindi a dar fastidio al padrone, il governo ha messo in campo una cassa integrazione retroattiva, senza precedenti, fatta così, senza causali, senza ragione, solo a copertura legale del proprietario dell'azienda. A quel punto è arrivata anche la beffa, perché la cassa integrazione, oltre ad essere retroattiva, misera, tardiva, tardava anche a arrivare. A luglio scorso abbiamo dovuto fare una delle tante azioni, in realtà ho dovuto saltare molti passaggi che abbiamo fatto in questi 2 anni, cioè occupare una torre di Firenze per sbloccare la cassa integrazione e nel frattempo siamo andati avanti con il nostro piano industriale, creando il paradosso per cui mentre normalmente si fanno bollire queste crisi industriali promettendo un cavaliere bianco che non arriva mai, ci sono aziende in cassa integrazione da decenni, Termini Imerese, Piombino, sono aziende chiuse dove il governo fa finta di fare qualcosa ogni tanto, noi avremo una soluzione industriale, la supportiamo con vari strumenti, tra cui l'azionariato popolare, appunto, di tutta risposta alla notizia di questi giorni. Quando noi annunciamo un protocollo con investitori istituzionali che mette in campo delle risorse per il piano industriale, l'azienda si prepara a riaprire i licenziamenti e il governo dice che non ci può fare nulla. La verità è che io credo il governo abbia dichiarato guerra a questa avvertenza, ma non da oggi. Raccontiamo adesso dell'iniziativa che ha portato all'azionariato popolare. In cosa consiste? Noi ci siamo posti il problema da mesi di trasformare un'assemblea permanente di lavoratori, perché appunto noi da 2 anni siamo un'assemblea permanente all'interno della fabbrica, in un'assemblea di produttori, di cooperatori. Purtroppo, nonostante sappiamo benissimo che cos'è il mondo delle cooperative nel nostro paese, l'unico strumento giuridico per trasformare un'assemblea di lavoratori in un'assemblea di cooperatori è la cooperativa. Abbiamo formato un embrione di cooperativa per iniziare a mettere in campo i primi accordi di natura produttiva. In una cooperativa si può essere soci lavoratori e soci finanziatori. Il socio finanziatore in realtà è un po' un'invasione capitalistica dentro la cooperativa, non è uno strumento che ci piace, tant'è che in una cooperativa per fortuna ci sono forti limiti al peso dei soci finanziatori. I soci finanziatori possono arrivare a contare fino a un terzo, non di più, e il regolamento che ci siamo dati nelle azioni per questi soci finanziatori esclude che un grosso socio finanziatore possa controllare la cooperativa perché dopo i 20.000 euro in su di azioni si ha sempre 5 voti, quindi che tu metta 20.000 euro, 100 euro o 2 milioni di euro, sempre 5 voti hai, quindi è un meccanismo che scoraggia la grossa concentrazione di investitori. Dopodiché questo meccanismo noi oggi lo vorremmo in realtà usare per sommare al controllo operaio sulla produzione, che è dato dalla forma di cooperativa di lavoratori, al controllo sociale, cioè stiamo chiedendo a tutto il movimento di solidarietà che abbiamo ricevuto o semplicemente a chi ritiene che la transizione ecologica dal basso sia una possibilità, l'unica, di diventare socio finanziatore della cooperativa e quindi di acquisire azioni, ma quello che ci interessa è il meccanismo che si verrebbe a creare per cui, per poi eleggere questo terzo dentro l'assemblea della cooperativa, i soci finanziatori dovrebbero fare assemblee e ci troveremmo teoricamente assemblee che vanno dal movimento climatico tedesco alle cooperative inglesi, arrivando fino a associazioni italiano. Oxfam per esempio ha dichiarato di essere pronto a diventare socio finanziatore, ma anche cittadini e cittadini dei nostri territori che per esempio possono chiedersi, una volta che si producono pannelli solari in questa fabbrica, se questi pannelli possono essere messi a disposizione delle comunità energetiche, se possono essere usati per abbattere la morosità incolpevole delle bollette. Quindi l'azionariato popolare come schiaffo in faccia a un governo immobile, perché di fatto l'obiettivo di 1 milione di euro che ci poniamo è praticamente più di quello che un governo è disposto a metterci, ma anche come forma di controllo sociale sulla futura cooperativa e di campagna di sostegno alla lotta, perché poi le assemblee per questo azionariato popolare in questo momento sono in realtà le assemblee contro i licenziamenti, perché come dicevo stanno ripartendo i licenziamenti. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Ovviamente vi invitiamo a seguire le pagine social del collettivo di fabbrica su Facebook e su Instagram, soprattutto dateci una mano su Facebook, visto che inizieremo soltanto noi ad aver notato che ormai l'algoritmo di Facebook oscura qualsiasi iniziativa di natura sociale, ma su insorgiamo.org, che è un sito che abbiamo messo in piedi da poco, trovate come contattarci, proporci eventi e iniziative, trovate i riferimenti per la campagna di azionariato popolare che si chiama 100 per 10.000, cioè noi ci auguriamo idealmente di avere 100 finanziatori da 10.000 euro, ma in realtà è una cifra indicativa, nel senso che l'obiettivo era di avere più diffusione possibile, e trovate tutto lì, le domande, il regolamento, eccetera. La cosa che vorrei specificare è che oggi le domande di ammissione a soci finanziatori che vogliamo di fare sono soprattutto simboliche, non nel senso che poi chiederemo anche i soldi, ma nel senso che è chiaro che finché non parte il piano industriale le domande di ammissione rimangono lì, ma ci interessa che oggi più persone possibili diano questa disponibilità anche appunto come forma di pressione di ripartenza del piano industriale. Il piano di azionariato popolare per l'ex GKN, la campagna 100 per 10.000. Un saluto e un ringraziamento a Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN. A presto! Grazie a voi per il lavoro, la solidarietà e l'interesse.